E andiamo in scena, 8 e 5 minuti o quasi, per questa vigilia di weekend di venerdì 8 marzo, la rubrica che ci porta sul palcoscenico del Teatro Comunale di Ferrara. Ho voluto questo spettacolo anche per l'intersezione letteraria con una mia grandissima passione per T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot, di cui vi parlerò tra poco. Intanto aggiungo che ho portato come anticipazione che sarà domani, sì, sarà anche domani, ma già da questa sera, però è indirizzato agli studenti alle ore 15, alle ore 20 e 30. Domani per il pubblico in generale al 9 marzo alle 20 e 30 e domenica 10 marzo alle ore 16. Quindi comprenderà tutto il weekend lo spettacolo tratto da una narrazione di Thomas Stearns Eliot, premio Nobel per la letteratura nel 1948. Nasce a St. Louis negli Stati Uniti d'America, poi sarà naturalizzato britannico e premiato, come ho detto, con il massimo, il Nobel per la letteratura, autore di diversi poemi, tra i quali ricordiamo La terra desolata, capolavoro assoluto. Lui ha avuto motivo di riportare una sorta di modernismo letterario, una poesia anche, oltre che alla scrittura, che con adattamento al teatro, ma anche di una lettura meravigliosa, porta sul palcoscenico estense Monio Vadia, che ho contattato appunto per darne una presentazione. Come spesso definisco i tutti i tempi, e T.S. Eliot è un tutti i tempi, Thomas Stearns Eliot è un tutti i tempi, questa narrazione, questo racconto, Assassinio nella cattedrale, ha tante attinenze anche con il presente, con il contemporaneo ovviamente, anche se pensate l'ambientazione è quella del 1170, cattedrale di Canterbury. L'arcivescovo Thomas Becket, di cui ascolteremo i percorsi per anticipare lo spettacolo al Comunale di Ferrara, avrà motivo di trovare quello che vi è in un potere temporale e in un potere invece spirituale, ed è nella civiltà occidentale un motivo tuttora di analisi. Lo facciamo attraverso un grandissimo della letteratura e anche un grandissimo del teatro, che è Monio Vadia, che tra poco riporterò in motivo di conversazione per raccontare un po' i contenuti di questo Assassinio nella cattedrale. Intanto un po' di musica, poi arriviamo in diretta per questo primo appuntamento in scena per la giornata di oggi, venerdì 8 marzo. A tra poco. Accompagnamento in questa prima parte al sax tenor Charles Lloyd, tra l'altro di recente è uscito un suo disco doppio, alla batteria Billy Higgins, John Abercrombie alla chitarra, Larry Grenadier al contrabbasso, Brad Mehldau al pianoforte, Hyperion with Higgins. È un disco uscito nel 2001, molto bello, già dalla formazione potete intuire la raffinatezza delle note per ACM. A proposito dell'anticipazione, a proposito dell'assassinio nella cattedrale, già dal titolo, no? Siamo nel 1170, esattamente il 2 dicembre, e sono gli ultimi giorni dell'arcivescovo Thomas Becket. Poderoso dramma scritto da uno dei più grandi poeti del Novecento e anche non solo del Novecento, cioè l'inglese Thomas Stearns Eliot. Premio Nobel per la letteratura, l'autore di Terra desolata, che è uno dei grandi capolavori della poesia, ed è un dramma poderoso che tratta il confronto tra potere, responsabilità della fede e della spiritualità. Allora, il potere non è rappresentato in scena, il potere è Enrico che viene evocato da altri personaggi. Allora, l'altro grande personaggio che è in scena tutto il tempo è Thomas Becket, quello che interpreto io. Chi è Thomas Becket? Thomas Becket è stato, viene dal basso, viene anche rintracciato continuamente, viene dalla contrada mercanti di Londra, però fa una certa strada, diventa amico del re, fa anche bisbocce con il re, cioè proprio amico. Il re lo nomina cancelliere, lui sì, è un grande, capace cancelliere, e però poi, su richiesta del re, viene nominato dalla Chiesa Cattolica arcivescovo, cioè quindi il capo della Chiesa Cattolica in Inghilterra. E lui assume il ruolo con assoluto rigore e determinazione, con responsabilità adamantina proprio. Questo lo mette in contrasto col potere, malgrado il re sia suo amico. E lui mantiene la lealtà, la fedeltà al re, però dice: fatto salvo il mio ordine, perché io sono arcivescovo. Non posso trasgredire il mio ruolo di arcivescovo, neanche per il re, perché lui è un uomo di Dio. Allora lui affronta magnificamente questa cosa. Allora arrivano, per convincerlo a non essere così rigido, quattro tentatori, di cui uno è interpretato, il tentatore più insidioso è interpretato da una magnifica attrice, Marianna Bargigli, camuffata con una grande cappa nera. Tentatore più insidioso perché conosce le debolezze di Becket. Ma lui resiste sia ai tentatori, che poi, non essendo riusciti nel loro intento, vengono sostituiti da tre sgherri che lo minacciano di morte. Thomas Becket va alla morte tranquillo, non ha nessuna paura, perché lui non è disposto a svendere la sua responsabilità, a tradirla o a impappocchiarla. Allora, questa è una storia del Medioevo, ma che cosa insegna a noi? L'insegnamento è il rigore quando assumi una responsabilità. Il rigore quando assumi una responsabilità. We'll be right back. loro, lo stiamo ascoltando, anzi l'abbiamo appena ascoltato dal disco The Rise, con questa interpretazione per la Label Bleu. Life is just a game è il titolo di questo brano, The Rise è il disco. Intanto sono le 8 e 15 minuti, ringrazio Moni Ovadia per la disponibilità in questo viaggio nel tempo. Siamo nel 1170, dal dramma scritto e riportato al Teatro Comunale di Ferrara per tutto il weekend, poi ripeterò gli orari. Intanto è sempre un'ottima occasione per visitare la meravigliosa città estense, come spesso ripeto e continuerò a fare. Per quanto riguarda il momento che si estende nei secoli e riporta ai giorni nostri con grandi attinenze, no? Assumere una responsabilità e farlo con grande rigore. La Cattedrale di Canterbury sarà un palcoscenico ripreso al Comunale estense. Thomas Becket diventa arcivescovo, è un grande amico del re, però insomma il re deve un attimo, Edoardo II, riporto anche il nome del regnante, deve un attimo mettersi a posto, perché come ben sapete, come spesso accade, non è esattamente un sovrano così illuminato, eh? E Thomas Becket dice: ma come, io non posso coprire, io ho delle responsabilità per il ruolo che ricopro. Cerca il re di corrompere questa figura in tutti i modi, ma non sarà assolutamente disponibile a cedere anche a delle lusinghe importanti fino a che l'arrivo delle minacce. La minaccia arriverà all'estrema soluzione, no? Quello di eliminare la figura di Thomas Becket, e lui va incontro a questo destino perché lui sa, come ho detto, che c'è un rigore nell'assumersi questa responsabilità. E beh, l'analisi e la critica, l'aspetto discutibile di quello che stiamo vivendo ai giorni nostri, certamente è riflesso in questo assassinio nella cattedrale. È certo, è il potere etico, cioè noi che siamo governati da figurette, da persone che passano il loro tempo solo a dire non sono stato io, e se sono stato io non me ne sono accorto. Questa è una figura, quella di Thomas Becket, che ci gatteggia, perché tra la scelta fra la morte e rinnegare la propria responsabilità, lui sceglie la morte. E allora noi avremo grande bisogno di queste figure umane che ce ne sono state, penso a Martin Luther King o a Nelson Mandela, o perfino il Mahatma Gandhi viene ucciso nel suo straordinario magistero. Esattamente. Allora, anche se io sono un uomo non credente, ugualmente ho interpretato con piacere questo ruolo, l'ho interpretato con grande piacere perché mostra la figura che di fronte all'assunzione di responsabilità non cede. Noi guardiamo, diciamo, oggi il Sollio Pontificio è su un uomo, secondo me, di caratura straordinaria, il quale parla per quella che è la sua responsabilità, parla di pace, di sostegno agli ultimi. Cosa deve fare? Che cosa deve fare un papa se non questo? E viene criticato persino da alcuni il riso. Io trovo questo un autentico scandalo del nostro tempo, perché, voglio dire, lui fa quello che deve fare, interpreta radicalmente il magistero cristiano. E cosa deve fare un papa? Eppure, ecco, noi siamo in questi tempi. Vicino a questi contenuti che purtroppo, certo, come abbiamo già detto, è totalmente assente. Certo, no, noi viviamo in un'epoca in cui ciò che conta è in particolare un potere, quello del denaro, cioè proprio è il trionfo del vitello d'oro. Certo, perché il vitello d'oro era l'economia, perché adorare un vitello già era un animale che produceva reddito, più d'oro, no? E quindi dall'altra parte c'era un uomo balbuziente, Mosè, che invece cercava di tenere fermo i principi etici. E bisogna dire che allo stato delle cose pro tempore Mosè è sconfitto. E infatti tanti sono i riferimenti nell'assassinio nella cattedrale, che sarà al Teatro Comunale di Ferrara, appunto, già da venerdì, incontri anche per sabato e domenica, da cui daremo delucidazione più precisa. Io intanto ringrazio tantissimo per questa anticipazione, per le parole di Monio Vadia, per lo spettacolo nella città estense. Io ti ringrazio tantissimo e ti auguro grazie ovviamente buona giornata. Con un caro saluto ai tuoi ascoltatori. Matay amanyay bo nyawul munyaw lay lay la la bo nyawul munyaw somane ful mami lay lay la la lay lay la la ful mami fatema nyare ayu ko du mat ful mami ay ta ful mami ful mami papa ta majaw kon munyaw Totale scomparsa di una socialdemocrazia, un minimo progressista, insomma, oppure l'aspetto veramente labile che troviamo nelle forze che devono o dovrebbero rappresentare tutto ciò, ha dato spazio, per quanto riguarda almeno il momento. Poi, intanto che facciamo lettura delle prime pagine, rassegna stampa, vediamo purtroppo che i percorsi non sono certamente in miglioramento. La figura del Santo Padre, come è stato messo in parallelo con la figura di Thomas Becket, riporta almeno una coerenza per determinati principi. La figura di Edoardo II, sovrano dell'epoca, siamo nell'Inghilterra del 1170, e questo arcivescovo, seppur amico, ma in contrasto con una decadenza che stava vivendo l'epoca, non è stato corrotto, ha portato con coerenza e senso di responsabilità in un dramma che viene riportato al Comunale grazie a Monio Vadia. Cito anche Marianella Bargilli, già citata da Monio Vadia nell'anticipazione dello spettacolo. Ribadisco gli orari: sarà per quanto riguarda questa sera ore 15, ma è mirato, diciamo così, a un aspetto per studenti e giovani. Domani per tutte e per tutti, sabato 9 marzo alle 20:30, domenica 10 marzo alle ore 16. Questa è la prima parte della rubrica In Scena. Un po' di musica, stiamo ascoltando Orchestra Baobab e diamo spazio anche a un altro musicista che a me piace tantissimo, che è Joe Farrell, insieme a Chick Corea, Elvin Jones, Buster Williams. Lo ascoltiamo, un po' di musica, poi dopo la pubblicità rientriamo per l'ottava edizione della stagione Agora. Ricordate Don Lysander, di cui abbiamo dato presentazione di tutta la rassegna nella rassegna con Anna Amadori? Ecco, è arrivato il momento di un incontro al quale appunto volevo dare uno spazio particolare, e questo spazio è In Scena, tra poco. Oh, fiume.